stato un... A dirle la verità è un secondo e 70. È stato bello e ho pianto tanto, come direbbe Fellini. Dunque, no, prima di tutto dobbiamo presentare il nuovo album di Luca Burgalassi, chiamato, cioè questo è uno che se n'è andato in... Perché non sento più la musica di sottofondo? Ah, eccola, no, è perché è molto lontano. Tutto. No, va bene. Cioè, questo è uno che se n'è andato in America ed è rimasto là. E dunque adesso sta là e fa degli album blues. Questo si chiama Come to My World ed è un invito a seguirmi nel mio percorso musicale ed emotivo. Un mondo fatto di tante sfaccettature e colori diversi, un viaggio interiore. Ma poi, se mi passi questi bigliettini qualche volta li leggo anch'io, però. Hai ragione. Comunque è il quarto album di Luca Burgalassi, che ci ha mandato naturalmente la nostra fantastica Francesca Grispello di Simpress 44, che salutiamo e baciamo. Ciao Francesca. E dunque e niente, così Burgalassi. Chitarrista, polistrumentista, cantautore livornese, si trasferisce in Virginia nel 2016 e inizia a studiare musica a 6 anni, cioè presumo non in Virginia perché non credo che nel 2016 avesse 6 anni, e poi niente, dunque in Virginia sta lì adesso e... mandiamo un ottenne, esatto, in diretta e dunque niente, nel 2016 esce Windward, poi dopo On the Other Side of the Water, bla bla bla, Come to My World esce quest'anno, e niente, è un disco blues, è un blues. Adesso allora... Ce lo andiamo ad ascoltare se il mixer me lo consente. Senti un po' qua. Ready for tonight. You're my loving babe, just waiting for tonight. Cause my baby needs my love, and I wanna treat her right. You're my loving babe, there's no reason to be mean. You're my loving babe, just longing to be seen. Cause my baby needs my love, ooh, and I treat her like a queen. Dice la lieta Busacchi che sta facendo le polpette la Valacchi. Le polpette. A me interessano poco. Sì. Sei vegetariano? Orgogliosamente dal 1992. Beh, minchino. Grazie. You're my loving baby, preparing for the night. You're my loving babe, just waiting for the night. Cause my baby needs my love, till the morning I'll treat her right. Dice, ma è proprio un classico blues. Anche se il nostro amico Oscar Moroni ci ha appena scritto dicendo che c'è qualcosa che non va in quel blues, per cui qualcosa che non va, cerchi di essere più preciso, però infatti, cioè, noi che siamo una trasmissione così precisa non possiamo dire così, cioè, vagamente c'è qualcosa, il nostro ascoltatore attento ed esigente poi cosa direbbe. Comunque stasera ne abbiamo almeno due, anzi forse ne abbiamo anche tre o quattro, visto che la settimana scorsa adesso sono andato al nuovo forno del pane, che tu sai benissimo che cos'è. Sì, ormai lo sapranno benissimo. Cioè, i nostri due ascoltatori, lo spero, insomma. Sì. E ho intervistato due nuovo forno panisti, mi piace chiamarli così. Sono due forno panisti che siamo a meno, cioè sono il numero... Adesso non mi chiede il numero, capisco il tuo interesse per la matematica, ma francamente non ne ho la più pallida idea. Me ne mancano tre, per cui siamo al numero 10. Ah, allora vedi che ci ho preso. Siamo al numero 9 e il numero 10. Il numero 9 è un ragazzone che ha una bellissima voce. Lui si chiama Mattia Paillet e è anche il curatore tu speravi, invece sei un ragazzone. Esatto. In carta e porta a casa, come direbbe mia nonna. Dicevo, lui è il curatore, è uno dei curatori della gelateria Sogni di Ghiaccio, ma mi interessava la sua voce perché è stata utilizzata per questo video sabato scorso per la giornata del contemporaneo. Lui ha descritto il nuovo forno del pane in maniera anche abbastanza precisa e funzionale. Io sono riuscita praticamente a non ascoltare niente della giornata del contemporaneo, faccio una pessima figura come esponente della categoria. Abbastanza, devo dire. Comunque puoi recuperare, perché la maggior parte delle cose erano naturalmente online e sono rimaste lì. Ma infatti è questo un po' che agisce come deterrente. Domani che hai la giornata libera si può recuperare. Va bene. Comunque ascoltiamoci cosa ci racconta Mattia. Finalmente siamo tornati dentro al nuovo forno del pane e siamo qui con Mattia Paillet. Ciao a tutti. Come stai? Sto molto bene, grazie. Molto bene. Dunque, io non so nulla di te a parte il fatto che sei uno dei fondatori della gelateria Sogni di Ghiaccio, giusto? Esattamente sì, nel lontano 2016. Sono passati già 4 anni? Sì. Cavoli. E come va la gelateria Sogni di Ghiaccio? Ma al momento va che è chiusa, nel senso che siamo in questo... Ah certo, siamo in lockdown. Esatto. Però fino ad ora è andata molto bene, diciamo un po' di sfrangiamenti di team, però per il resto tutto molto bene. Principalmente facciamo personali di artisti, quindi il contatto con gli artisti è diretto, è personale, è umano. Io personalmente mi diverto molto, mi piace molto, imparo molto. Certo. Com'è stato essere invitato, cioè essere uno dei 12 vincitori di questo spazio qui nel Mambo? Io mi sento abbastanza privilegiato, mi dispiace molto che ci fossero solo 12 posti, perché conosco tantissime persone che hanno fatto domande e non sono hanno entrati. Fatto domanda e più che altro si meriterebbero di stare qua esattamente quanto noi. Certo. E mi fa piacere sottolineare che a Bologna siamo molto più di 12. Esatto. Però 220 hanno fatto domanda, lo sapevi? Non lo sapevo così tanti. Okay. Immaginavo che comunque un numero alto, ma così tanti non immaginavo. Sì. Però. Poi mi dicono che tra quei 220 c'era qualcuno che in realtà non poteva fare domande, eccetera, però insomma, 220 sappiamo di essere 220 artisti che non, cioè anzi, la problematica è avere 220 artisti che non hanno lo studio a Bologna, perché io per esempio che ce l'ho non ho fatto domanda perché ce l'ho. Giustamente. Mi sembrava ancora sbagliato. Più di 220. 220 sono solo quelli che non hanno lo studio. Si spera che almeno quelli che abbiano lo studio siano di più di 220, non saprei. Esatto. Comunque non vogliamo né parlare di chi non ha lo studio o chi ha lo studio, ma vogliamo parlare di te. Che cosa combini qui? Io mi sento un privilegiato, ti dicevo, a stare qua. Mi fa molto piacere poter vivere questo spazio che solitamente ho sempre visto allestito con delle mostre, poterlo vivere come studio quotidianamente, metterci dentro le mie cose, poter bucare queste pareti, per me è bellissimo. Sporcarle è fantastico. Sporcarle, esatto. Buttare per terra le cartacce senza centrare il cestino, eccetera. E come ti trovi con i tuoi colleghi? Sei di fianco a... Lui si chiama... Bata Renktur. Esatto. E Filippo detto Tappi. Becchi e Filippo che lo conoscevi già, era un tuo amico, no? Sì, Filippo è un accumulatore seriale, guarda qua quanta roba che c'ha. Anche tu non scherzi, diciamo che anche tu non sei... non sei esattamente il più minimalista. Esatto, è vero, è vero. No, la più minimalista è Leonora, se non sbaglio. È vero, lei ha solo la scrivania, praticamente un puff dove si siede, basta. Cioè, no, comunque mi trovo molto bene con tutti quanti, diciamo che la maggior parte già li conoscevo molto bene, erano già amici, quindi direi che principalmente è un gruppo di amici. Stimo e rispetto il lavoro di tutti quanti, quindi ho solo da imparare dai miei vicini di banco, insomma. E che cosa stai combinando? Io vedo un sacco di cose, anzi adesso ne descrivo un po'. Vedo una collezione di piccoli ragnetti, sembrano di argento, e sono tanti. Dopodiché una stella marina con un bastone e il rifacimento in creta di una stella marina con un bastone. Sì. Due guanti neri che sembrano quelli dell'S lunga, però sono neri. Sì. Eccetera, non lo so, poi se vuoi continuare tu, che cosa ci racconti del tuo lavoro? Io non so assolutamente nulla del tuo lavoro. Ma io posso dirvi che allora in studio faccio un lavoro completamente diverso da quello che faccio approcciandomi a uno spazio espositivo, quindi se mai vi capiterà di vedere una mia mostra, probabilmente tutto quello che c'è qua dentro sarà stravolto o comunque inesistente. In studio mi piace muovermi su binari differenti, contraddirmi costantemente, fare sempre cose che mi danno piacere di essere fatte, quindi mi muovo tra la scultura, il disegno, la pittura, l'assemblamento di materiali, anche in quel caso lì la cucitura, la lettura, la scrittura, la fotografia, il video. E chi più ne ha più ne metta. Questa cucitura è una felpa, ma hai cucito tu anche la felpa? O solo gli oggetti attaccati sulla felpa? Solo gli oggetti attaccati sulla felpa. No, però perché effettivamente era cucita un po' di mazzo, perché comunque. No, tra l'altro sono. Adesso io non ci vedo niente, però sono cuciti benissimo, sbaglio. Sì, sono cuciti. Cioè, sei precisissimo. Ma no, è bella sta cosa, perché mi sembra che tu abbia una libertà nello studio practice veramente è invidiabile. Perché sì, me la concedo, perché comunque non ho. Nel senso, non ho un datore di lavoro. Quindi. Certo, per cui giustamente. Questo implica che tu non abbia una galleria di riferimento, mi sbaglio? Per il momento no. Okay. Per il momento no. A parte quella che gestisci tu, che però non può essere, cioè è la tua galleria. Sì, perché quella non è proprio una galleria, non siamo commerciali, quindi facciamo un'attività no profit, semplicemente di organizzazione di eventi, non abbiamo mai pensato di buttarci nell'ambito del commerciale. Io ho collaborato con delle gallerie, però al momento mi trovo bene a lavorare. Anche senza, e lì ti capisco. Esatto. No, diciamo che io faccio altri lavori ovviamente per mantenermi, non riesco a mantenermi ancora con questo, però l'idea è quella e io aspetto senza problemi, non ho nessuna fretta, insomma. Ottimo, sì, non voglio entrare in questo argomento che è meglio, però te lo auguro naturalmente, anzi penso che già essere all'interno di questi magnifici 12+1 sia già, anzi mi fa piacere che finalmente apparsa Maciel anche nel sito, che prima era assente. Ti auguro che questo ti possa spronare, anzi infatti mi chiedevo se venissero galleristi a scegliervi, perché se io fossi un gallerista approfitterei di questa pubblicità gratuita per venire a cercare di convincervi di lavorare con me. Ma ce ne sono stati diversi che sono venuti a fare studio visit, ma non ci hanno scelto. Okay. Non è vero, ancora non è detto, non si sa, insomma. Comunque, oltre ai galleristi, abbiamo parlato con tantissimi curatori e intellettuali di vario genere, insomma, editori. È stato un bel periodo di scambio anche con l'esterno, nonostante appunto l'emergenza che stiamo vivendo. Eh sì, perché poi non si sa neanche. Quando si riapre, se si riapre, se potremo finalmente vedere una vostra mostra oppure no. Vedo che per esempio Simone ha già allestito come se questa fosse la sua mostra e ha messo tutto in un angolo, non so se ha smesso di dipingere oppure ha deciso che basta. Ma c'è da dire che adesso hanno prolungato di un mese la nostra permanenza, ecco, qui. Questo è positivo. Quindi direi che in tutto il negativo che si sta vivendo adesso, del positivo c'è. Ed è appunto che stiamo qui un altro mese. Esatto. Quindi se non dovessero aprire, io mi auguro che i mesi possano diventare 2, 3. Ah, certo, ci facciamo un annetto al mambo alla infatti fine. Perché effettivamente uno studio come questo non è che capita tutti i giorni, soprattutto gratuitamente, giusto? Esattamente, esattamente. È veramente un privilegio. Tra l'altro questi 23 gradi, 23-24 gradi che ci sono qui dentro non fanno schifo per niente. No. Assolutamente, in una stagione come questa va più che bene. E dunque hai delle cose, so che sei impegnatissimo, per cui presumo che tu abbia delle mostre, degli eventi, delle cose in programma di cui ci racconti. Guarda, al momento io non proferisco parola perché ho dei progetti all'attivo, però siccome lo sappiamo non è stabile, il contratto firmato. Aspetto che si verifichino quantomeno le condizioni per realizzarli, poi ve ne saprò parlare sicuramente. Lo spazio anche nella stessa identiche condizioni, la programmazione già c'è, però appunto aspettiamo di capire quando sarà il momento migliore per riaprire al pubblico. Certo, ma che cos'è la cosa che ti... il cuore della tua ricerca? Domanda da poco, no? Madonna santa, No, è che mi sembrava che mancasse proprio questo in quello che ci siamo detti, e siccome sta per finire il tempo... ti faccio una domanda difficilissima, poi potresti anche rispondermi: un gatto col cappello di Babbo Natale, che è quello che sto guardando tra questi disegni. Potrei dirti il mistero. No, perché mi sembra che ci, tra l'altro in questa zona mi sembra di trovare un sacco di simboli di qualche tipo la stella di mare ha a che fare con l'Étoile de Mer di Merrey, oppure No, in realtà no, la stella viene da un incontro che ho fatto con delle stelle marine vive che mi hanno sconvolto l'esistenza, e da quel momento ho cominciato a disegnarle sempre, a scolpirle sempre, e poi ne ho comprate 130 su Amazon secche, e quella lì è una delle 130. Ho capito. Allora aspettiamo di vedere le altre 129. Ma invece questo numero, che perché è attaccato ad un bastone e poi c'è un numero 35968, è l'inizio di un telefono di qualcuno che te lo stava dando, e poi... Il numero in realtà è una sequenza numerica che è stata scritta, teorizzata da questo pseudoscienziato russo che si chiama Grigory Grabovoi, che ha scritto un manuale in cui associa ad ogni sequenza numerica una patologia del corpo umano, e a detta sua la sequenza è curativa per quella patologia. Quindi semplicemente stando esposti a questa sequenza numerica, che in quel caso lì è 35968, penso sia quella per l'ansia, okay, si può guarire da questa patologia. Ecco, a me adesso ci si può credere o non credere, io personalmente non ci credo, lo uso come possibilità per aprire appunto nuove interpretazioni. È bella questa cosa. Dunque abbiamo bisogno di più tempo per approfondire il tuo lavoro, ma questa volta il nostro tempo è finito, per cui ti ringrazio moltissimo e ci vediamo se e quando riapre il Mambo con la vostra mostra. Grazie a te Stefano, va benissimo. Ok, grazie. Hai capito quante cose si imparano da Mattia Paier? Ma sì, dai. Prima di tutto, soprattutto che puoi comprare 130 stelle di mare su Amazon. Questo naturalmente è utilissimo, perché adesso, oltre alle stelle di Natale, possiamo anche fare questo tipo di acquisti. Un albero di stelle di mare. Un albero di stelle di mare. Non so poi dopo a Santo Stefano che a Roma possano comunque effondere, però. Chi lo sa. Vabbè, comunque mi è piaciuto questo Mattia Paier, anche perché ha rivolto un pensiero a quelli che non sono lì, che è già un gesto di generosità notevole. Considerato l'andazzo solito. E poi mi ero fatta qualche appunto. Sì. Cioè, dunque, intellettuali di vario genere. Ah, ecco, anche quella, anche a me è piaciuta quella. Bello. Cosa saranno questi intellettuali? Vorrei sapere chi sono. Secondo me lo dobbiamo chiedere a Alison Grimaldi Donahue la prossima volta che la vediamo. Ah, okay. Perché, anzi, quindi, fra l'altro, quindi allenati a dirlo in inglese, intellectuals of various ma kind. No, lei parla italiano meglio di noi, per allora cui figuriamoci, non ha bisogno di traduzione. Che peccato. Sai com'è, gli intellettuali come lei appunto parlano 7-8 lingue, e chi più ne ha più ne metta. E io invece ti volevo raccontare che questa settimana mi è arrivato un sacco di musica, addirittura una nuova casa discografica chiamata Pulp Records mi ha mandato due pezzi, di cui uno si chiama In attesa di rottamazione. Lo vuoi sentire? Sì, assolutamente. Sentiamolo prima della pubblicità. Di essere rottamati anche, esatto, noi. Prima delle pubblicità delle stavo per dire 9:30, ma sono 7:30. Altrimenti dovevamo scappare per il cuoco il coprifuoco. Sentiamoli. Spaziale. Per l'anno scolastico in corso, l'istituzione Bologna. Ciao, siamo le Fingers e questo è Coxo Spaziale. Well, hello. Sai com'è? I'm Jacqueline Perkins, also known as, I guess, Art by Jack. So I spell my name because it's like 10 letters long. I'm 34, from Louisiana, and I've been doing nail art on and off since around 2003. Jacqueline, I started Perkins. Doing art journaling. Io non ho mai detto che cosa sono queste cose, school, ma non lo dirò mai. Once I got to college, perché non ti sento? You know, ecco. I got on the internet, was looking up stuff, and I found this site called. Io ero sbagliato, avevo alzato il microfono sbagliato. E adesso ci sono. Adesso ci sei. Ah, meno male. Possiamo parlare sopra Jacqueline Perkins come se fosse musica di sottofondo. No, dai, facciamola sentire un po'. Sì. We exchanged from back then. Her and Julie. I know I'm gonna butcher it. Ex post facto. Yep. Those ladies really have inspired me, even in my non-nail art. Art in general. So, I guess now I just make random art with my daughter. She likes playing with my paper, as my husband likes to call it, playing with mommy's paper. Lately, I've been making my little faces and putting them on like Popeye's bags, postcards that I cut out from like boxes and stuff. But When I started doing it again, I've done it off and on because normally I would, something happened, I'd move and have to quit. And then back in 2017, I came back and did it. And then I sent out some art with my little C390s, just weird stuff. And then I might say I'm ungrateful, but I noticed now that people don't really decorate their envelope. It's mostly like ad and pass stuff. And I'm like, kind of was embarrassed by my art. which is another issue. But then I just started mailing to only a few people because I wasn't sure if nobody liked it. And then I'm like, I don't want to post my stuff on the internet. You know, I do appreciate what people send me, but I don't know why I always have to be like on Facebook and stuff. But I get how people want to see if you like their stuff, so maybe I should try to at least put stuff on there from what I get from people just to show them appreciative. But it's hard for me because I hate being on a computer. Yeah. I hate being on my phone and on a computer. I'd rather be making art. And I love to travel to a little town, take my mail art and work on it, and then post it from like a little small. Bello il sottofondo. Hai capito. È Sergio Leone il sottofondo. Eh sì. Ah. È quello che dovevamo suonare l'altra volta che non abbiamo suonato. Ah. E che ho inglobato nella mia chiavetta di musica di sottofondo per Coxo Spaziale. Perché poi c'è anche da dire che in realtà ci sono degli eventi. Ah, davvero? Questa settimana. Beh, fantastico. Mi è arrivato. Perché adesso siamo un po' riaperti, giusto? Siamo un po' riaperti, un po' sono degli eventi online. Però, siccome succede, mi è arrivato 5 minuti prima che uscissi di casa, e siccome appunto è un evento legato al nuovo Forno del Pane, mi sembrava simpatico. Ah, beh, dunque, poi ne devo dire. C'ho anch'io un angolo della menzione. Caspita, manda i tuoi. No, prima. L'angolo della menzione. Intanto spariamo la sigla dell'angolo della menzione. Va bene, poi vai tu perché io devo reperire un attimo le informazioni che sono rimaste indietro. Anch'io, aspetta che, ecco, per esempio, vedi, ce l'avevo aperto, ma è questo stronzo di un iPad. Non che io odi la Apple, l'ho mai detto che io odio la Apple? Comunque mi associo. Ecco, no, simpaticamente adesso in realtà bisogna essere molto orgogliosi che Radio Città Fujiko utilizza tutto software libero senza appunto questi antipatici marchingegni devo riempire questo silenzio o vogliamo mettere un'altra intervista a Giancarlo Norese? Scegli tu. In realtà io c'ho l'intervista a Filippo Tappi, ma abbiamo messo, è questo, guarda, è simpaticissimo, continua a dire loading, mentre avevo appunto questa menzione che è venerdì, c'è un talk a cura del nuovo Forno del Pane. A che ora, scusa? Alle 18. Ma no, porca miseria, si sovrappone al mio. Che sarebbe quello di Baruchello? No, sarebbe... Ce ne sono ben tre, allora, venerdì alle 18. Cioè, venerdì alle 18 c'è... Si può fare un duello tra questi tre talk. Dai, facciamo così. Comunque continua a dirmi loading. Cioè, io può darsi che non potrò mai raccontarvi che cosa succede. Forse se vado su Facebook faccio prima. Beh, intanto comunque io sono pronta, per cui vai con il tuo. Posso andare con il mio. Okay. Allora, il venerdì 11 dicembre alle ore 18 all'interno di Scripta Festival, che è un festival curato da Pietro Gaglianò da diversi anni ed è molto interessante, è anche un fuoriporta. Questo è contemporaneamente un angolo della menzione e un fuoriporta. Quindi dopo mandiamo anche il fuoriporta come sigla. Ci sarà una puntata speciale online di Racconto di Venti, che è un progetto curato da anni Concetta Modica insieme a Sophie Usunier, in cui loro invitano degli artisti a raccontare un loro lavoro e chi segue disegna quello che immagina di questo racconto, per cui è una, diciamo, è una proposta di relazione con l'opera che secondo me è molto interessante ed efficace, perché tocca un punto fondamentale, cioè l'arte interessa a chi la fa, se no a nessuno gliene frega niente, capito? E basta. Mentre invece venerdì alle ore 18, sempre 11 dicembre, al nuovo Forno del Pane abbiamo il Public Program con Lisa Lo Robertson. Il nuovo Forno del Pane presenta il terzo appuntamento del programma e mi si è chiuso. Ok, ce la possiamo fare. E quindi non arriveremo. È ripartito a dirmi loading, non ci credo. Ok, forse forse questo vabbè, intanto andrete ad ascoltare Scritta Festival, per cui niente alle, troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutte le la prossima volta me lo stampo su carta, così sono sicuro che non mi scompare davanti agli occhi mentre lo leggo, e così scoprirete che cosa succede venerdì alle 18 al Nuovo Forno del Pane, che è un incontro online su Google Meet stavolta, che però non posso più dirvi che cos'è perché non ho la memoria breve, e dunque rimane così sospeso. E comunque rimaniamo dentro al Nuovo Forno del Pane, perché andiamo ad ascoltarci, appunto. Ma mi dovevi mettere il fuori porta? E non ce l'ho, e non mi puoi chiedere queste cose. Tu ricordati che questo mixer è del 1975, o me lo dici 4 ore in advance, oppure niente. Oppure lo mandiamo la prossima volta, anche se non c'entra niente. Facciamo così, recuperiamo poi nella prossima. Esattamente. Lo mandiamo 2 volte di seguito. Lo mandiamo 2 volte di seguito. Nel frattempo va bene, andiamo avanti così. E dicevo, abbiamo intervistato sempre la settimana scorsa. Un altro forno panista che è Filippo Tappi, che adesso lo andiamo ad ascoltare, se il mixer me lo permette. Posso presentarti come il fidanzato della fotografa migliore che abbiamo nel campo. Filippo Tappi, cosa stai facendo? Stai raccattando del tabacco su un foglio in cui c'è il sistema periodico con tu sei l'autore dell'opera più fotografata in assoluto all'interno del Mambo, che è questo foglio in cui c'è scritto non pulire nulla all'interno dello spazio, che sembra piacere tantissimo a tutti e tutti lo fotografano. Cosa mi vuoi dire di quest'opera? No, scherzo. Come stai e com'è essere qui tra i Nuovo Forno panisti? È molto molto bello, e diciamo che dopo un po' di ambientazione in realtà è uno spazio che ha un sacco di risonanza dentro di me. Spazio così grande non ho mai avuto a disposizione la possibilità di lavorarci, mi è esploso un'altra modalità di lavoro sicuramente, e mi sono accorto che c'è tanto spazio attorno. Effettivamente questa mi hai dato una bella domanda: che differenza c'è tra lavorare nello studio dove lavoravi prima e lavorare all'interno del Mambo con altri 12 artisti che conosci ed ammiri, presumo? Sì, certo. Ma allora, prima di tutto, io non ho mai lavorato in uno studio in comune con qualcun altro e tendenzialmente non ho mai cercato di farlo, ho sempre avuto un po' di timore. Penso allo studio come una grotta dove rifugiarmi e dove poter stare totalmente nudo in tutti i sensi, non nel senso fisico, perché troppo serve troppo freddo. Però Qui potresti starci, ci sono. Adesso si sta molto bene, sì. Ma allora, è stata un po' una sorpresa. Allo stesso tempo, ripeto, essendo così grande lo spazio, da una parte non pensavo, ma ci si scorda quasi ogni tanto di avere qualcuno di fianco, anche perché c'è anche tanto spazio per isolarsi. E allo stesso tempo c'è una sorta di invito a un confronto non costretto. Quindi c'è. Paradossalmente, immaginando di uscire da questo spazio, immagino anche che mi mancherà una certa compagnia a distanza così ravvicinata. Effettivamente io mi ero immaginato una sorta di grande fratello in cui vi imponevano di fare delle cose tutti insieme, eccetera. Poi invece vedo che siete liberissimi di fare, non fare, sì. Esserci, non esserci. Assolutamente sì. Odiarvi o amarvi, oppure anche organizzare cose insieme. No, devo dire che anche per fortuna il gruppo che si è formato qua è un gruppo che, senza ragionarci troppo sopra, ha saputo rispettare l'uno l'altro. Quindi certo, sì, sento di aver guadagnato un confronto che non mi aspettavo ci potesse avere lavorando nello studio insieme a qualcun altro. Bella sta cosa, infatti. E dunque, che cosa stai facendo di bello in questo momento? Ma allora, io sto facendo quello che faccio sempre, facevo anche prima di venire qui, nel senso che non lavoro né a progetto né a tema, quindi ha più un flusso continuo, quindi anche spesso non ho avuto periodi, non ho avuto proprio studio e non ho poi sentito così tanto la differenza da quando ce l'avevo. Lavoro quindi a tantissime cose, molte cose ormai sono cosciente che non diventeranno mai opere d'arte o arte, però mi servono per un continuo rilaborio delle questioni. In questo momento esatto sto, non so, lavorando a dei fogli, questo foglio quello che hai visto prima della tavola periodica, in realtà non lo vedo come tavola periodica ma come piccoli quadratini, è una fotocopia in bianco e nero di una tavola periodica, e in realtà io lo sto rielaborando a livello visivo, quindi andranno a coprirsi un po' tutti questi quadrati, diventerà un'altra forma che non so bene dove andrà a finire. Oppure sto formando graficamente queste pagine, sono tutte pagine singole di libri che elaboro graficamente, ma questi libri non esistono, quindi ogni pagina ipoteticamente è un libro immaginario, e anche questa è una forma per, diciamo, andare a catturare queste continue input, forze, intuizioni che mi capitano addosso e che alle volte riesco a rintracciare e altre volte sfuggono. E diciamo che io lavoro un po' così, con questi tipi di... E questo indipendentemente dal fatto che magari hai una mostra che devi fare, oppure cioè, questo tuo flusso continua anche quando non hai mostre, oppure... Assolutamente sì, continua anche quando non ho mostre, però chiaramente quando ho mostre è molto più facile per me catturare queste cose, perché ho a parte la costrizione di farlo e anche la... diciamo pressione, e queste tendenzialmente non per la mostra in sé che viene fuori, ma per il fatto che ho l'occasione di costringere altre forze a convergere, paradossalmente mi fa favorire queste situazioni. Alle volte mi capita di avere più una sensazione di nulla facenza, anche se faccio, ho la sensazione di fare in continuazione cose. Questo lo capisco, perché pure mio figlio oggi mi ha detto che non faccio mai niente, per cui sì, devo dire che questa cosa credo che accomuna tutti gli artisti, anche quelli che magari fanno 100 quadri alla settimana, non lo so. È interessante questa idea di flusso, cioè questa idea di urgenza, di dover comunque andare dietro a qualcosa, cioè di fatto stai cercando qualcosa ma non sai che cosa stai cercando, sbaglio? Un po' è così, assolutamente, e infatti pensavo adesso che, cioè è da un po' che lo penso, credo di essere più passivo, nel senso di ascoltare, essere più a favore come pratica, cioè avere una pratica più che ha a che fare con l'ascolto che con la visione, nel senso che sono un po' un orecchio, se mi devo dare una forma, ricevo dall'esterno. E ci sono tantissime cose qui dentro il mio studio, è molto incasinato e queste cose possono stare qui per molto tempo, alcune cose sono venute qui perché me le portavo dietro da altre situazioni, case, studio e quant'altro, e aspetto tendenzialmente. Là c'è un orecchio. Là c'è un orecchio e ci sono anche tanti altri orecchi in giro, però... Ma e anche tu sei come Mattia, anche tu curi mostre, giusto? Sbaglio? Cioè sei un gestore di uno spazio? In questo momento in maniera ufficiale, nel senso che curo sì. La programmazione di Locale 2 insieme a Gabriele Tosi e a Fabio Farnè, però sì, anche lì ho avuto una sorta di istinto nel tempo di curare, non sapendo neanche bene cosa volesse dire curare, l'ho scoperto dopo, curare una mostra. Però diciamo che non sono assolutamente un curatore professionista, non conosco né i trick né la professione del curatore, quindi mi viene da farlo, e credo che tra l'altro Gabriele mi abbia chiamato per questo. Mi viene da farlo concependo le situazioni, le cose. Poi dall'altra parte ho un'altra formazione, che è quella più per installatore o comunque di azione dello spazio, che può essere molto utile all'interno. Io penso che tutti gli artisti curatori di fatto lo facciano per amore dell'arte, che va al di sopra dell'amore della propria arte, che insomma è una differenza abbastanza netta tra gli artisti che pensano solo a loro stessi e gli artisti che magari... Anche molta curiosità di vedere cosa fanno gli altri, come agiscono, di imparare, assolutamente, anche solo di condividere uno spazio dove non è sempre tu la responsabilità e l'autorialità, no? E poi qua c'è un timbro che dice tipografia testamento, questo è un oggetto trovato o l'hai fatto fare tu? No, l'abbiamo fatto, tipografia testamento è un progetto collettivo. Io in realtà è da pochi anni che lavoro come artista singolo, autore singolo, non so come dire. In realtà ho sempre lavorato con collettivi, tipo Greve Testamento è un collettivo ancora attivo, si attiva quando viene chiamato, quindi è una sorta di cellula dormiente, è legata al mondo della stampa, nel senso che la produzione alla fine che viene fuori è sempre qualcosa di stampato, cartaceo, sempre tendenzialmente molto leggero, poco costoso o gratuito. È nato già nel 2010 insieme a, fondato da me, Claudio Castellucci e Sarangelini, ancora quando facevo parte del mondo del teatro, e quindi ci sono, diciamo, delle modalità. In particolare questo collettivo è proprio un collettivo acefalo, nel senso che non c'è una direzione ben precisa, ogni volta il gruppo si forma in maniera diversa e si sviluppa nell'arco dell'azione che viene richiesta e poi risparisce. Perché effettivamente me l'avevi accennato che tu hai un passato di teatrante. Ho un passato di teatrante. E sei ancora teatrante? Cosa? Non sono più teatrante, mi manca moltissimo lo spazio teatrale, il teatro in sé come struttura. Ma cosa facevi nel mondo del teatro? Ho fatto di tutto tranne l'attore. Ok. Quindi, cioè, in realtà sono partito come non posso dire danzatore, però ballante. Claudio diceva così, era una scuola di Claudio Castellucci. Ok. Eravamo dei ballanti, ballavamo in cerchio, danze che si riferivano anche a folklore, a danze antiche, sempre riferite al cerchio. E da lì in realtà ho lavorato per una decina d'anni nel mondo del teatro, come da tecnico a regista a... Come si fa nel mondo del teatro? Tutto fare? Sì. Tutti tutto fare? Io lo conosco pochissimo, ma un po' perché Fedra, la mia co-conduttrice, lei è una teatrante che in questo momento è rimasta in un'altra regione, per cui mi arrangio. In parte è anche il mondo che ancora mi salva le economie, perché riesco ancora a lavorare come direttore tecnico per una compagnia di Cesena, come realizzatore tecnico in un laboratorio stupendo a Cesena che si chiama Plastic Art, e mi dà ancora modo di vivere per certi versi, che è importante molto. Ti ringrazio moltissimo. Grazie a te, Stefano. Ci vediamo qua al Mambo. Spero presto, sì. Io nel frattempo ho recuperato le informazioni che volevo darvi dell'angolo della menzione. Prima mi permetti di farlo? Ecco, allora farlo? Sì, ti permetto di farlo, dopo però ti devo sgridare. Sgridami, certo, no, ho già capito perché hai mi già vuoi capito gridare. Perché. L'evento di venerdì alle ore 18, appunto organizzato dal Nuovo Forno del Pane e da Alison Grimaldi Donahue, che abbiamo sentito due o tre settimane fa, si svolge online su Google Meet e ha come protagonista Lisa Robertson, e prende avvio dal suo romanzo The Baudelaire Fractal, uscito per Coach House Press nel 2020, ovvero quest'anno, a partire dalla lettura del capitolo Drunk, tradotto in italiano che sarebbe ubriaco o ubriaca, per l'occasione da Marilena Renda, e di cui un estratto sarà pubblicato sul catalogo del Nuovo Forno del Pane in uscita a febbraio. L'autrice ci accompagna alla scoperta della storia di Hazel Brown, giovane donna e scrittrice protagonista del romanzo. Oddio, ho sbagliato. Ma va bene lo stesso. Bene, quindi. E quindi basta. E quindi adesso. Ah no, e poi volevo dire che ho detto Plunto, in realtà volevo dire Pluto, me l'ha scritto Oscar. Ma questo Moroni. Mi era anche un po' sfuggito, forse. E poi non ho detto. Cioè, ho detto che mi arrangiavo da solo. Mentre invece c'è Chiara Giallo. Potevi spendere due paroline sulla supplente. Potevo spendere due paroline sulla supplente. Ignaro che la supplente in realtà sta andrà al Nuovo Forno del Pane anche lei a cercare i rimasti. Bisogna vedere se i rimasti mi rispondono, perché adesso io avevo un numero di telefono che però forse non è proprio aggiornatissimo, di un nuovo fornopanista che o è un purista dell'assenza di WhatsApp oppure se ne frega. Oppure se ne frega, quindi è abbastanza probabile. Quindi diciamo nuovo forno panista, che tu sai chi sei, esatto. Rispondimi. Anche perché no, non è vero, non è l'unico rimasto, ce ne sono rimasti quattro e adesso ce la faremo a intervistarli tutti, perché sai com'è, quando si fa ci siamo messi di punta. Già sono riuscito a non avere tutti quelli che hanno fatto la residenza nell'Umbo. intervistati. Non ce l'hai fatta. No, malgrado fosse estate e non ci fosse nient'altro da fare. Però vabbè, così. E niente, direi che la puntata può volgere. Dimmi tu, tranquillamente al termine. No, ma vabbè, se vuoi abbiamo anche un altro paio di menzioni di cosine che succedono sempre online, naturalmente. Sempre venerdì, sempre alle 18. No, sempre alle 18, però mercoledì. Ah, ok. Quindi mercoledì alle 18 si potrebbe seguire, per esempio, la maratona di presentazione online di Chip and Dale Studio, è stato nostro ospite quest'estate, Luca Panaro, il patron di Chip and Dale. Esatto. Chissà cosa ne penserà che lo definisco patron. Vabbè, comunque ormai è andata. E poi c'è anche Luca Rossi. Ah, cavolo, è vero, sta facendo delle dirette fantastiche. Ma Luca Rossi, io mi sono stupita di non vederti quando c'era Fabio Cavallucci. Io ero in prima fila. Ho visto, ma io non sapevo nulla. E poi andando su Facebook per caso l'ho visto e l'ho. Sì, però ho guardato la fine su Facebook. Interessante, infatti. È molto interessante. Dovremmo richiamare Luca Rossi. Bisognerebbe richiamare Luca Rossi. Beh, a quel punto bisognerebbe chiamare Luca Rossi e anche Fabio Cavallucci. Ma non possiamo chiamare due in studio. No, non possiamo chiamare nessuno in studio, in realtà. Va bene, intanto se sentite la mancanza di Luca Rossi, mercoledì 9 dicembre alle ore 18, cliccando su questo link che poi vi mettiamo sul blog, perché adesso dirvelo tutto, ma poi in realtà è anche abbastanza facile. coxospaziale.blogspot.com. Ma no, sarebbe www.facebook.com/Luca Rossi Lab. Ah sì, certo, è la pagina Facebook di Luca Rossi. Esatto, c'è lui con il terzo appuntamento di un ciclo di interviste con importanti esponenti del mondo dell'arte. Arte, e penso che sia la volta di Giacinto di Pietrantonio. Ah, wow, da non quindi, perdere. Insomma, è una cosa che è abbastanza una cosa che durerà 3 ore e mezza. No, e lui ha la tendenza di dilungarsi. Però secondo me Luca Rossi gli dà un freno, perché sui tempi è stato abbastanza categorico. No, effettivamente lui ha alcune parti molto, molto anglosassoni nella sua organizzazione. Detto questo era Coxo Spaziale, era la 339esima puntata. Io ero Chiara Giallo questa settimana. E anche tutto questo mese. Al volgere dell'anno nuovo, mentre io rimango sempre Stefano W. Pasquini. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che fa altro? Cammino per la città, senza una meta, senza sapere che cosa fai e dove sei e se stai bene senza di me. E mi domando se mai ti è capitato di non sapere dov'è che vai e di chiederti se sto bene senza di te. Che fra l'altro il bello di Radio Città Fujiko è proprio questo, che ogni tanto si sente della bella musica nuova, tipo questa che si chiama Sveglia Ginevra, che ho sentito intervistata in auto, ho cacciato fuori, come si chiama, Shazam. E l'ho trovata, adesso ve la faccio sentire come sigla finale. Anche noi. Ci sentiamo dal vivo di nuovo lunedì prossimo, yeah. Lo ricordi quel bar e poi parcheggio di fronte al mare, e poi non so se sai, ma è rimasto tutto uguale.